Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Vai Milan, combatti così, altro che zanzara. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Uno, uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100 Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. 9-8 minuti, eccoci cari ascoltatori. Uno Nessuno 100 Milan riparte fino alle 11 con la nostra redazione al gran completo. Miriam Lucchetti pronta per le sue sfide. Lorenzo Nespoli l'ha impigrito e spostato anche sullo sport, a occuparsi di sport. Da due giorni infatti ha un sorriso a 58 denti. Questo mi deve far pensare che non sia molto felice con noi. Elisabetta Fusconi dalla ridente Svizzera. Leonardo Manera forse in arrivo, non lo so. Ieri ci siamo sentiti lungamente e ho detto ma forse domani vengo. Non lo so. Adesso vedo. Decido. Boh. L'Alpino sempre lì in regia con la sua maschera nera a coprirgli il volto, mezzo volto. Maschera nera, penna bianca. Ci siamo con tutti voi all'800240024 e se volete al 349-238-6666. 349-238-6666. Eccolo là. Parliamo di tante tematiche oggi a partire da questa vicenda di cronaca terribile di Colleferro e dintorni, ma torniamo sul tema della droga. Parliamo anche di altre tematiche. Sapete che siamo con voi fino alle 11. Ale. I will not be easy and it will not be easy. Devo dire che ci sono due cose che ormai mi infastidiscono sui giornali. Il dibattito in Italia, si parla il dibattito sulla ripartenza della scuola, veramente sono quasi alla saturazione. E l'altra questione, beh, sono tutte e due collegate comunque nell'editoriale di Claudio Cerasa, direttore del Foglio, che oggi proprio invita, e anch'io attraverso le parole di Claudio Cerasa che ora voglio leggere, invito a mia volta i genitori, tutti quanti, a basta, diamoci una calmata. Cioè le scuole, a parte che in alcuni casi come abbiamo raccontato ieri sono già riaperte in Italia, riapriranno altre in questi giorni, in questa settimana. Mio figlio va giovedì a scuola, i salesiani. A proposito, oggi è il compleanno di Mattia. Oh, Miriam Lucchetti, non hai fatto gli auguri ancora a Mattia, 12 anni, sarà molto offeso per questo. Non hai ancora fatto gli auguri a mio figlio. Comunque, molte inizieranno, la gran parte inizieranno il 14. Claudio Cerasa, oggi sul Foglio. La verità è semplice, nessuno lo sa. Nessuno. La rivista Science, uno dei prodotti editoriali dedicati alla scienza più importanti al mondo, vanta 130.000 abbonati, un bacino di lettori che viene stimato attorno alle 570.000 persone. In uno degli ultimi numeri dati alle stampe, dedicato naturalmente alla pandemia, ha affrontato il tema della riapertura delle scuole, ponendosi alcune domande. Una di queste domande, incorniciata in un colonnino a pagina 244, è forse la domanda chiave alla quale tutti in queste ore di riapertura delle scuole cercano una risposta chiara e definitiva. La domanda secca è questa: cosa dovrebbe fare una scuola quando si ritrova di fronte a un caso di positività? Science non ci gira tanto intorno con la risposta. Short answer, cioè risposta sintetica. No one knows. Nessuno lo sa. Quindi mettiamoci il cuore in pace e non fatevi, come dire, abbindolare dalle procedure. Certo che le procedure ci sono, ma la realtà è che nessuno lo sa con la precisione. Proprio così, nessuno sa cosa capiterà quando in qualche scuola verrà rintracciato un caso di positività. Al contrario, tutti sappiamo che il successo delle scuole dipenderà da elementi come rispettare le regole che ormai sappiamo tutti a memoria. E qui poi Claudio Cerasa dice c'è il ritorno delle aule, speriamo che non si politicizzi tutto questo, speriamo che i talk show di ritorno non resistano alla tentazione di trasformare in un nuovo delitto di cogne ogni singola infezione registrata a scuola. E qui dico i talk show, ecco la seconda notizia negativa, ritornano i talk show. No, sempre uguali, tutti uguali, con gli schemi già preconfezionati, sai già cosa dice uno, cosa dice l'altro, sai già gli ospiti che ci saranno, tutti uguali, sempre uguali, più noiosi di una partita di calcio che finisce 0-0 di serie H. Comunque nessuno lo sa. Certo, ci sono le procedure, per esempio, sentite, credo ieri ad Agorà da Luisella Costamagna, nostra amica Luisella Costamagna, il ministro Luci Azzolina della scuola. Cosa succede se trovano uno positivo a scuola? Sì, questa è la procedura, viene preso, viene isolato, vengono chiamati i genitori. Senti. Azzolina. Nel caso in cui ci sia un sospetto Covid, lo studente viene accompagnato in uno spazio ad hoc che è presente all'interno della scuola. Immediatamente si chiamano i genitori e si mettono i genitori e lo studente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione Territoriale. Sì. Quindi ci si sposta dalla scuola. Ormai la so a memoria, ho assistito alla riunione anche da mio figlio, così bisogna lasciare i numeri di telefono dove rispondono tutti. Sì. Poi l'ASL deciderà, l'ASL arriverà, deciderà. Sì, ma intanto il virus non è che aspetta l'ASL. Nessuno lo sa, nessuno. Poi l'ASL deciderà insieme alla scuola. Questa è la procedura, ma ha ragione Sainz. Nessuno sa cosa succede. Se io un domani chiamo la mia scuola, la scuola dei miei figli, e dico: scusate, mio figlio dopo la febbre ha fatto il tampone, è positivo, sono le 9:30, quindi tutti in classe, eccetera. Mio figlio, comunico, è positivo. Io vorrei sapere cosa succede alle 9:30 e un secondo. Cosa succede? Tutti a casa, chiamiamo l'ASL. Sì, vabbè, chiamate l'ASL, ma alle 9:30 e un secondo. Cosa succede? Come dice Science, nessuno lo sa. Questa è un po' la verità, cari ascoltatori. In tutto sappiamo che, per esempio, in Campania De Luca ha annunciato il rinvio dell'inizio della scuola. E questo è per me incredibile. Ma in Italia, quando non si sa cosa fare, rinviamo, slitta. Decidiamo il rinvio dell'anno scolastico. Al 24, accogliendo la richiesta che ci è stata fatta dai comuni. Dall'ANCI, l'associazione dei comuni, sindacati, da tutti i sindacati della scuola. Sindacati, va bene, sì. Rinviamo. Tra l'altro De Luca, senti qua, ammette... No... Ragazzi, l'Italia è così. Vai, De Luca, non ci sono... Da marzo è bloccata la scuola, è tutto a posto, no? Sarà tutto a posto. Non abbiamo ancora dati certi per quanto riguarda il personale scolastico, quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, per quanto riguarda l'arrivo dei banchi singoli da parte del Ministero, e i comuni hanno chiesto più tempo per fare, più sempre tempo. Con finanziamenti tempo. Regionali. Tempo, in Italia ci vuole tempo, bisogna dibattere, facciamo una commissione, ci vuole tempo, devono arrivare i banchi, ci vuole... non è ancora tutto pronto, bisogna attendere. Vabbè. Allora, signori, tralasciamo questo argomento, vogliamo parlare della tragedia che è avvenuta a Colleferro. Io ho letto un po' tutti gli articoli, poi come al solito, più che gli articoli, tante volte, io lo dico, parlano le foto, la foto di questo ragazzo di 21 anni, sorridente, originario di Capoverde, i genitori, Willy Montero Duarte, un ragazzo, tutti dicono, un bravo ragazzo che aveva studiato l'alberghiero, sognava di diventare chef, aveva dei sogni, dei propositi, così, ucciso ucciso in un pestaggio brutale. Ovviamente sono stati, dobbiamo attendere tutte le vicende giudiziarie, ma sono sotto accusa 4 persone che sono state fermate. Ci si è concentrati molto sulla figura di questi 2 fratelli, soprattutto Gabriele e Marco Bianchi. Si è detto che praticavano quest'arte marziale estrema, sulla quale magari diciamo qualcosa tra poco. Io vorrei iniziare, intanto saluto il direttore del Quotidiano Nazionale Michele Brambilla, buongiorno, ciao direttore, grazie. Buongiorno, ciao Alessandro. Allora, salutiamo insieme il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri. Sindaco, buongiorno, siamo in provincia. Salve, buongiorno a tutti voi. Allora, poi come al solito ci sono sempre anche le frasi di circostanza, giustamente, che si dicono in queste situazioni, però lei ha avuto, per i nostri ascoltatori, diciamo, il privilegio, l'onore e l'onere di incontrare la famiglia di Willy, e quindi qualcosa ci potrà dire della situazione che si sta, di follia che si è generata e di qual è la situazione adesso a Paliano. La famiglia, come penso immaginerete, è fortemente provata, distrutta da quanto è accaduto ad un figlio che è estraneo, è stato sempre estraneo a questo tipo di situazioni, un ragazzo splendido, completamente integrato nella nostra città, con tanti amici, altruista, che ha sempre aiutato gli amici, si è sempre reso disponibile, e probabilmente questa sua caratteristica ha causato anche la sua morte. Eh sì, perché tutti hanno detto che è intervenuto quando ha visto un compagno, ex compagno dell'istituto Alberghiero, sì, in difficoltà. In difficoltà. Senta, c'è trovato... sindaco, c'è questa frase che sì, io ho letto su Repubblica, che secondo alcuni ragazzi di Paliano, i familiari di questi 2 fratelli avrebbero detto una volta portati in caserma, e cioè in fin dei conti che hanno fatto? Hanno solo ucciso un extracomunitario. Non lo so. Guardi, questa cosa glielo dico in anteprima, gliela confermo, perché ieri ero in casa del ragazzo con i propri genitori e c'era un testimone di quanto è avvenuto, di quanto lei sta dicendo in questo momento, che era un genitore sempre di un ragazzo di Paliano che era stato chiamato a testimoniare in caserma. Si trovava lì in quel momento contemporaneamente a dei genitori invece degli accusati che hanno avuto questo tipo di uscita. Sì, per cui io non escluderei neanche il motivo razziale, no? Rispetto a questa cosa, perché se andiamo ad analizzare quanto è accaduto, arrivano animali, perché io li definisco in questo modo, scendono dalla macchina e picchiano un ragazzo di colore senza alcun motivo, non è che era presente solo lui lì, e lo uccidono. Io qualche dubbio lo comincio ad avere rispetto a questo momento qui, un movimento razziale. Io, direttore Michele Brambilla, non siamo magistrati, ma intanto ti chiedo una considerazione, visto che voi, insomma, come giornale siete sempre molto attenti a questi fatti che purtroppo ci circondano. Ti chiedo cosa ne pensi del fatto che per uno l'accusa diventerà omicidio volontario. Si è parlato di omicidio preterintenzionale, ma insomma, ripeto, non siamo magistrati, non facciamo quel lavoro. Ma uno che arriva, scende, colpisce con colpi d'arti marziali uno che atterra in 4 o 5 contro uno, non lo so. Ma che dobbiamo dire che non ha cercato di ucciderlo? Gli ha dato data via la voce, scusate, sì. Non ti sentivo più. Ma considerato l'accanimento, io credo che il volontario ci stia, perché è un conto è dare un pugno a una persona per volergli far male un po', ma non troppo, questo cade, picchia la testa e muore, allora c'è stato il intenzionale, ma questa è stata un'esecuzione a mani nude, con il culto della violenza, ho l'impressione che il movente vero sia semplicemente il gusto della violenza, sì, che è ancora peggio secondo me che non pensare di dover regolare un conto, no? Proprio una cosa da lancia meccanica, mi è sembrato. Mm-hmm. Certo, sì, è davvero terribile. Si è parlato molto di quest'arte marziale. Io non sono d'accordo, per esempio, su quello che ha proposto il direttore della stampa Massimo Giannini. Ha suscitato un dibattito, ieri ha detto andrebbe abolita, ma la mia sensazione è che la reazione, va bene, è questa: aboliamola, e poi queste persone vanno a praticarla per strada, cosa che peraltro pare abbiano fatto. Non so, direttore, tu che dici? No, ma non serve nulla abolire, cioè, che cosa aboliamo? Non si può abolire il male per legge. Se uno vuole praticare un'arte marziale per sport è un conto, se vuole fare del male un altro, i modi per uccidere ci saranno sempre, no? Non si risolve niente, è un fatto di cultura, è un fatto di educazione, e questi due fratelli sembrano, perché io non li conosco, ma insomma da quello che si legge e anche dalle foto che loro stessi hanno postato sui social, sembrano compiacersi di una cattiveria, queste espressioni truci, questi muscoli esibiti. Sì, dicono questi... in famiglia viene fatto per spaventare i rivali, che poi dopo evidentemente si informano prima dei combattimenti, andiamo a vedere chi devo incontrare, quindi bisogna tenere un tono di questo tipo se si fa quel tipo di sport. Appunto, però vuol dire che c'è dentro un gusto del combattimento, della violenza. Io se dovessi capitare in una lista avrei prima paura di prenderle, quindi loro invece mettevano sui social dei messaggi: domani ci sarà una magnifica lista, ecco, e il gusto del combattimento, della violenza, del far male, e perfino di correre un rischio, no? È una religio mortis terribile che non si può abolire per legge, evidentemente qualcosa di molto sì. radicato in alcune persone, ma insomma, ci sono stati tanti esempi di soggetti, di bande che vivono per questi momenti presunti di gloria, ecco. Io tornerei per un attimo dal sindaco di Paliano, perché Willy era di Paliano, la famiglia, quindi lei è andato a trovarlo come alcuni amici che sono stati coinvolti. Sindaco, qual è il clima? Glielo chiedo perché lei, da sindaco, primo cittadino, conosce molto bene, immagino, il clima che si respira. Si è sentito anche sui social volare accuse molto dure, cioè del tipo vi aspettiamo, di timori di vendette, di timori di rappresaglie. Cioè, cosa chiede la comunità ora? No, guardi, la comunità di Paliano è strana a questo tipo di considerazioni sui social, ci sono state, ma probabilmente da paesi di mito. Io registro grande sconforto, incredulità e disperazione. Ieri abbiamo fatto un momento di preghiera per Willy, con tantissimi giovani presenti, e leggevo nel loro viso proprio disperazione, incredulità. Sono giorni tristi, e penso davvero, non lo dico perché per la circostanza che viviamo, ma penso che questa vicenda rappresenti una cicatrice che non andrà mai via nella nostra città, perché ripeto, a parte non merita nessuno questa fine, ma lui proprio, Willy in particolare, per il ragazzo d'oro che era. Ma sicuramente così. Io, sindaco, la ringrazio. Ringrazio il sindaco Domenico Alfieri di Paliano, e vorrei continuare qualche minuto ancora col direttore del Quotidiano Nazionale, Michele Brambilla, sul tema. Io l'ho letto, do qualche articolo, l'ha tirato fuori, adesso si scaverà nei precedenti. Qualche giornale la cita, la droga, qualcuno dice che si erano specializzati in qualche modo al, diciamo così, recupero crediti in un certo ambiente. Sai perché te lo chiedo? Perché tu, e ne abbiamo parlato ieri, da due giorni batti su questo tasto della droga dicendo perché non esiste una campagna vera a dire che la droga in qualche modo, sia per gli assuntori sia per chi gravita in quel mondo, fa male, cioè un mondo che porta solo a cose negative. Non la vedi questa grande campagna? Due giorni fa hai detto anche: chissà perché, chiedetevi perché molti giornalisti e politici non ne parlano, facendo capire che evidentemente qualcuno con la cocaina, sì, o forse qualcuno con la cocaina ha a che fare, ecco. Ma per forza, ma scusa, io mi ricordo una volta, tanti anni fa, quando lavoravo al Corriere, che in riunione si parlò della notizia di un premio che il Ministero della Sanità voleva dare ai medici che inducevano i loro pazienti a smettere di fumare, e un collega disse: ma perché non restituiscono anche per i medici che convincono il paziente a smettere di drogarsi. E tutti dissero: cosa c'entra? Chi fuma avvelena anche gli altri col fumo, chi droga sono fatti suoi. E invece non è così, perché chi droga, intanto, se vogliamo dirla banalmente, è un costo per la collettività, perché va curato, eccetera. Ma poi fomenta la microcriminalità, perché va a rubare per comprarsi le dosi, fa del male, provoca incidenti stradali, ha delle reazioni esagerate che sfociano anche in risse, pestaggi, eccetera. Non sa qualunque operatore della polizia o dei carabinieri. Ora, non c'è una campagna martellante sulla droga, c'è su un sacco di altre cose, contro l'obesità, contro le sigarette, appunto, c'è contro il riscaldamento del pianeta, le bottigliette di plastica, ma sulla droga no. Sai cosa ieri ha detto Cappato? So che tu l'hai ascoltato, ha detto: si può criticare solo un qualcosa che nel momento in cui diventa legale, cioè se, perché è la grande battaglia anche dei radicali, legalizziamola, e allora quando la legalizzeremo, come coi pacchetti di sigarette, c'è la pubblicità, guarda che ti fa venire il cancro, guarda che ti provoca questo, allora a quel punto faremo una campagna. Ma io questo sinceramente non riesco a capire la razza di un discorso del genere. Intanto la campagna contro il fumo non si limita a scrivere sui pacchetti di sigarette che il fumo fa male, ma ha vietato il fumo praticamente ovunque, in tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Ma poi, allora, scusate, la violenza contro le donne è lecita? Picchiare una donna è lecito? No, eppure si fanno giustamente campagne contro le violenze sulle donne. Stiamo parlando di questo omicidio di questo ragazzo Willy, ad opera di picchiatori che forse hanno fatto uso di droga. Allora, uccidere un ragazzo pugni è legale? No. Allora, per questo, secondo Cappato, non dovremmo dire che la droga fa male, perché rende anche più violenti certi soggetti. Cioè, non capisco che significa. Il virus è legale, eppure noi diciamo che bisogna usare la mascherina e tenere il distanziamento sociale. Cioè, è un discorso che sinceramente non capisco. Poi io sono contrario alla legalizzazione, ma non è questo il punto. Posso anche avere torto, però non capisci il nesso, non capisci il nesso del criticare non solo si parli della droga. Non capisco perché non si faccia. Allora, volete legalizzare la droga, la legalizzate al tempo stesso nelle scuole, sui social, in televisione, alla radio, sui giornali. Fate una campagna martellante per dire che la droga brucia il cervello. Se ne parla quando escono le notizie di cronaca, quella che avete tirato fuori, che poi è diventata, come dire, patrimonio un po' di tutti i giornali, la vicenda di Bologna, che peraltro, scrivete anche oggi, non è per nulla finita, nel senso che ci sono altri nomi, altre feste, quelle che coinvolgono ragazzine, che tu hai scritto ieri, usate, bisogna usare questa parola. Sai che su questo molti si dividono e dicono, ma però 17 anni puoi, sei, diciamo, sul pizzo, riesci quasi a determinare con una sorta di libero arbitrio in che ambienti vuoi metterti. In realtà, insomma, può darsi tutto, però sono ragazzi minorenni ai quali veniva fatto balenare questo paradiso artificiale della droga, i festini. Questi soggetti erano personaggi di 35, 40, 45 anni, che avevano una possibilità di manipolarle non indifferente, ma in ogni caso è una cosa terribile che è successa, e secondo Cappato non bisognerebbe dire che la droga fa male perché la droga è illegale. No? Non capisco. Non capisci. Sei d'accordo però con la proposta Severgnini? Su questa devo dire, ho letto soprattutto critiche, cioè nella pubblicazione dei nomi di coloro che, non so, alla terza volta vengono pizzicati a consumare droga, no? Questo rischio di gogna c'è davvero, il rischio di gogna. Infatti io non sono d'accordo, però la proposta di Severgnini, che io non condivido, perché tante volte la persona che assume stupefacenti è una persona che ha dei problemi, che ha bisogno di essere aiutata, e non è giusto che venga additata così al pubblico di espresso. Quindi io non sono d'accordo, però la provocazione di Severgnini solleva un punto centrale, e torno a ripeterlo, e cioè far capire che chi si droga non è affare suo, perché io se so che chi guida lo scuolabus che prende mio figlio si fa di cocaina, ho il diritto di essere preoccupato. Allora, Io sono contrario alle segnalazioni, ma deve passare il principio che chi consuma certe droghe è un pericolo anche per gli altri. Tu andresti a farti operare in sala operatoria da un medico tossicodipendente? Sì, che è il tema che Severnini ha lanciato, cioè a dire: io vorrei sapere se un chirurgo, se un politico, se un collega, insomma, magari collega di giornale fa meno danni di un chirurgo, sicuramente. Anzi. Esatto. Però, lo facciamo anche noi. Lo facciamo anche noi, però, brutta razza. No, però il tema è questo. Direttore, io ti ringrazio, ripeto, Michele Brambilla, direttore del Quotidiano Nazionale, oggi non l'ho citato, ma sulla vicenda di Bologna, di quella che viene stata ribattezzata Villa Inferno, ci sono ancora nuovi sviluppi, perché spuntano altre minori, cioè sarebbe stato evidentemente, allora usiamo il condizionale, sempre un giro di minorenni, sulla questione che molti casualmente molti uomini spesso hanno questa posizione, no, notate questa casualità, uomini dicono, però insomma 17 anni, puoi scegliere dove andare, e banalmente faccio il discorso della domanda e dell'offerta, se non ci fossero dei quarantenni, 35enni, trentenni, cinquantenni che desiderano fare sesso con delle sedicenni, quindicenni, diciassettenni, cioè non ci fosse questo tipo di perversa richiesta, non ci sarebbe neanche una quindicenne, sedicenne, diciassettenne disposta a prestarsi a queste prestazioni. Banalmente, lo so che dico una grande banalità, signor Catalano mi rimprovererebbe, però il dato di fatto, ogni tanto le banalità e le ovvietà sono anche delle piccole grandi verità, credo. Allora, caro Alpino, ho visto Manera che si aggira, troverà delle cuffie stupende che funzionano da entrambi i padiglioni, come Danilo Alicino è riuscito, coadiuvato da Sandro Fortunati, a sistemare. Non troverà neanche dei fili. Sveleremo l'arcano e il motivo di perché troverà tutto ordinato tra poco, dopo la pubblicità. 1 nessuno 100 Milan. Alpino mi guarda, ma non volevo interrompere questo straordinario assolo di chitarra. Però devo interromperlo anche perché è arrivato il signor Leonardo Manera, signor Bonetti. Sempre presente in studio, potrei anche stare a casa volendo, e invece mi faccio la coda, sono venuto in macchina oggi. Per verificare se effettivamente la cuffia funzionava bene. Ma così così. Ma cosa dici? Devo così chiedere così a Sandro Fortunato. No, va, ma a volte si sente solo da un orecchio. E poi è rimasto qui sul tavolo il consueto filame. No, il filame. Ieri Deborah Rosciani, oggi guarda, Deborah Rosciani è entrata per fare la borsa. La prima cosa ha detto: ma qua c'era un filame incredibile. Ieri ho passato mezz'ora a sistemare. Quindi Deborah Rosciani insieme a Mauro ha sistemato per mezz'ora il filame. Io lo trovo ancora, bisogna dire a Deborah Rosciani quando viene a occupare lo studio di occuparsi viene a occupare lo studio di occuparsi un po' anche del filame che c'è qui immanente e che continua ad esserci, il filame immanente. Ringrazio Sfida Lucchetti, sì, però insomma il Led Zeppelin, però mi devi dire di chi è la solo di chitarra, perché sono i Led Zeppelin, vabbè, perdi colpi, cara Miriam, ho detto la solo di chitarra, quindi mi devi dire nome, cognome e anche breve bio del chitarrista dei Led Zeppelin. Io credo Red Kanzian. Non è Red Kanzian dei... Guarda che andrà un grande chitarrista, Red Kanzian. Sta bene, però, Red Kanzian dei Led Zeppelin. Kanzian, Zeppelin, cioè la rima in N è molto difficile. Già per questo meriterei un applauso, perché ho fatto questa rima in N. Ragazzi, è venuto in graspolvero Leonardo Manera. Invito ancora Deborah Rosciani a risolvere il problema del filame. Sembri Emilio Fede che ha problemi con i cognomi. Perché hai problemi con i cognomi? Comincio a invecchiare, quest'anno sono 53, quindi sono nella fase calante della vita. Sono nella fase calante. Vabbè, c'è ovviamente una sfida Luchetti polemica, è entrata in una fase polemica la ragazza, insomma, giustamente, però dice Jimmy Page, dovresti saperlo. Sentiamo. Hai visto il WhatsApp che è arrivato qui nella chat della radio? Sì, hai visto? Sì, esatto. Scuola. Sì, sì, Elisabetta Fusconi ci fa sapere questo. Siccome io ho detto nessuno sa, come ha detto Science, nessuno sa cosa succederà. Leggi cosa è successo, per esempio, a Crema. Allora, è successo questo. Crema, vediamo dove lo trovo, eccolo qui. Niente, si è perso. L'ho perso. Niente, sta diventando vecchio. Ma no, perché ho dovuto entrare nel telefono. Ritmo. Sospetto caso Covid a Crema, una classe. Sì. Tutta la classe a casa. Oh. Sospetto. È quello che avevo profetizzato io. Ma certo. Oggi c'è sulla provincia di Cremona. A segnalare la temperatura sono stati correttamente i genitori, quindi avranno detto insomma a 38, non lo so, qualche linea di febbre. I genitori dovranno avvisare il pediatra, medico di famiglia, e in attesa dell'esito del tampone tutta la sezione dovrà rimanere a casa a scopo precauzionale. È quello che si diceva, sarà così, cioè sarà... È una scuola a scopo precauzionale, sì. Quest'anno sarà così, un anno a scopo precauzionale. Mm. Fa bene forse De Luca a rinviare al 24. Io, Luca, rinvierei anche al 24 ottobre. Sì, rinviamo. Facciamo un esame. Facciamo il 24 dicembre, che poi si fa la bella. Come si chiama tecnicamente la scuola che si può fare a casa, ma con i genitori? Didattica a distanza. No, sai che c'è la possibilità, credo, in Italia. L'homeschooling. Di studiare anche privatamente. Certo, sì. Ecco. L'homeschooling. Sì. Che io ho sempre detto, ho visto come un'iniziativa un po' da Figli dei Fiori. E invece evidentemente, ma la legge lo permette, certo, puoi fare l'homeschooling e credo eventualmente poi alla fine sostenere qualche esame. Sì, sicuramente. Ecco. Quindi io inviterei tutti i genitori a fare così, però con libertà didattica, cioè potete insegnare quello che volete, secondo me poi a fine anno, visto anche il Covid, si sarà larghi di manica, quindi voi potete fare l'homeschooling, insegnare ai vostri figli quello che preferite, che ne so, ecco, i cani, uno vuole insegnare tutte le cose dei cani, la vita dei cani, vita va bene, insegniamo questo, che è un po' il metodo, come si chiamava quel metodo scolastico? Invecchiato, Montessori. No. È invecchiato, perde colpi. Perde. Dove devi sviluppare le capacità del bambino che è già intrinseche e innate. Non lo so. Mi viene sfida Luchetti, scusa, aspetta, ridai una spiegazione sommaria. Qual è quel metodo scolastico? Dove invece di dire tu cosa devi imparare il bimbo, sì, invece dei programmi, si cerca di sviluppare le qualità già intrinseche del bambino. Mi viene hegeliana, ma non è hegeliana, è un'altra cosa che comincia con la E. Con la E, vabbè, steineriano. Steineriano! È il metodo steineriano! Ma no. Vabbè, signori. È il metodo steineriano, che Jimmy, tra l'altro. Page, parla tu con la chitarra. Il metodo steineriano è molto in audio, certo, fighetto, certo. Anche. Quindi facciamo l'homeschooling, ognuno insegna ai figli quello che vuole e alla fine si sarà un esame. Soprattutto inizia con la E. Va bene. Finisce in ano, finisce sempre in ano. Questo è. Denise dalla provincia di Como. Non è per fare una battuta di cattivo gusto, entrambi finiscono in ano, esatto. C'è poco da dire. La cuffia non funziona bene. Denise! Prego, sì. Prego. Ma buongiorno. Tra l'altro leggo. Non inizio con i complimenti perché non finisco più. No, basta. Tra l'altro leggo, mi corregga se sbaglio, mi dico dalla redazione, Denise lavora in psichiatria, è vero? Ce n'è fortemente bisogno per il nostro signor Bonetti. Prego, Denise. Questo è un complimento per me. Sì. Ma infatti, cioè, è una follia bella, la follia del fanciullino, prego. sì, assolutamente. Vi sento sempre. Siete i miei miti, insomma. Grazie. Ci ha chiamato per cosa, Denise? Ho chiamato per quello che stavo ascoltando prima, perché condividevo appunto quello che è stato detto rispetto al fatto che non ci sia una campagna sufficiente, una sensibilizzazione rispetto all'utilizzo delle droghe, che adesso sono c'è un utilizzo ubiquitario, massiccio, soprattutto da parte di minori, e noi ne vediamo gli effetti in psichiatria, per cui è un argomento sul quale io mi sento abbastanza sensibile e toccata, perché noi vediamo delle situazioni non piacevoli, diciamo. E rispetto alla violenza, all'aggressività che poi si scatena, non ci sono dubbi, soprattutto perché anche la cannabis adesso ha, diciamo, ci sono delle sostanze chimiche che hanno alterato, cioè la cannabis che viene considerata abbastanza innocua erroneamente, in realtà crea degli effetti psicogeni, per cui ci sono delle psicosi indotte. Sì, quindi lei dice ci vorrebbe una campagna massiccia a dire queste cose, cosa che non vede. Sì, assolutamente, nelle scuole, ragazze, ragazzini, che mi paiono sorpresi e allibiti e perplessi, ma vedo dei ragazzini, tra le conoscenze che ho, che rimangono perplessi rispetto agli effetti dannosi sia di alcol che di cannabis, che considerano, diciamo, robetta, ormai tutti la usano, non fa niente. Secondo me il concetto è un po' quello. Sì, l'idea del renderla, come dire, una cosa che si può fare, che si può fare senza grandi danni. Denise, grazie per questa testimonianza della provincia di Como. Segnalo per la cronaca, come ci dice un ascoltatore, che comunque il chitarrista dei Pooh è Do di Battaglia. E Red Canzian cosa suona? Il basso? Non lo so, però Leonardo, più ne fai e più ne dici e più ne sbagli. Insomma. Secondo me è Red Canzian, magari il nostro ascoltatore ha scritto proprio perché ce l'ha no. con me. Ah no, c'è da dire una cosa, contro. Io do una fiducia cieca nei miei ascoltatori. Cioè se i miei ascoltatori e i nostri ascoltatori solita. Dicono una cosa e in maniera un'altra, io credo proprio... cioè giocherei la casa, la solita captatio benevolenzie di Alessandro Milan nei confronti degli ascoltatori, non c'è dubbio. Sì. Allora. La trasgressione 1 nessuno 100 Milan. Allora, 9:48 minuti, Red Canzian, voce, basso, flauto dolce, violoncello, contrabbasso, anche chitarra, ma soprattutto basso e poi è compositore. Anche chitarra però. Sì, anche vabbè, chitarra, sì, anche chitarra. Uno che sa suonare il violoncello, il contrabbasso, il basso e il flauto dolce, che cavolo, una chitarra. Stai tanto... sminuendo chi suona la chitarra, no. Come se fosse uno strumento minore rispetto a chi suona il violoncello, per esempio. Se sa suonare il violoncello, sicuramente sa suonare anche la chitarra. E poi ci suggerisce Daniela, e io credo ciecamente a Daniela, che è Canzian. Ripetete tutti in coro come Canzian, Canzian, Red Canzian. Perché sarà veneto di origine. Canzian. Sei Canzian. Ah, sei quello che ho visto anche suonare quel po'. Ah. Sì, quello dei Po. L'ho visto anche, sono venuto anche a un tuo concerto di quello dei Po. E c'è Do di Battaglia, poi c'è Canzian e come si chiama l'altro? Page, no, non c'è. E l'altro com'è che si chiama? No, non chiedermi. Capisci? Facchinetti è il quarto, che è Do di Battaglia, c'è Canzian. Il padre, come si chiama? Roby, il padre, giusto. Sì. Va bene, dai. Caro Leonardo, sulle note di Red Canzian. Allora, abbiamo capito con un termine inadatto e inadeguato che esistono i negazionisti. Inadatto e inadeguato perché in passato il termine negazionista è stato spesso associato all'Olocausto, mentre ora lo si vuole riferire, non senza malizia, a chi ha dei dubbi riguardo al coronavirus. Non solo dubbi in merito all'esistenza del virus, su quello credo che nessuno abbia dubbi, ma anche su chi ha qualche obiezione riguardo alla gestione di tutta la situazione. Ma tant'è. Se appena qualcuno balbetta una perplessità, viene immediatamente tacciato con gran disprezzo di essere un pericoloso negazionista, magari di estrema destra. Ad esempio, forse sulla comunicazione si è stati un po' troppo allarmisti. Negazionista! Riguardo al che bello stare a casa, forse c'è stato un po' di retorica. Negazionista! Mi sembra che mandare i droni sulla spiaggia sia stato fuori luogo. Negazionista! Vorrei far l'amore senza mascherina. Negazionista! Vorrei far l'amore in generale. Negazionista! Finché non c'è il vaccino, va in bianco! E così il connubio paura, senso di colpa, paura di contrarre il virus e senso di colpa verso i parenti, magari anziani, ai quali si potrebbe trasmettere il virus, ha generato qualche eccesso di zelo e di insulti. Anche se, permettetemi, se io ho qualche dubbio anche solo sulla gestione dell'emergenza e subito mi viene dato al negazionista, io un po' mi offendo. Vorrei che mi fosse dato il negazionista, vorrei che mi insultassero se andassi in giro nei luoghi senza mascherina, se alitassi in faccia agli altri ridendo, se organizzassi la movida in camera mia con uomini e donne compiacenti che non sono neanche affetti stabili. Ma siccome tutto questo io non lo faccio e non l'ho fatto, anche perché uomini e donne disposti a far la movida in camera mia non ne ho trovati neanche in passato, vorrei conservare la possibilità, casomai, di esprimere eventualmente qualche piccolo pensiero senza essere immediatamente accusato di essere un gran cialtrone che se ne frega della vita mia e soprattutto altrui. E invece no, in un attimo parte l'insulto. Negazionista! Allora, se proprio questa parola deve essere negazionista, io aggiungo del Covid, per specificare bene di cosa stiamo parlando. Perché a questo punto, dal momento che ci sono i negazionisti del Covid, credo ci siano anche altri negazionisti, cioè quelli che non considerano tutti gli effetti collaterali di questa situazione. Effetti psicologici, economici, sociali, che vengono molto spesso trascurati. Effetti che riguardano la persona anche nei suoi aspetti più intimi, pur se non sanitari magari. Ecco, quelli che non considerano questi aspetti io li definirei negazionisti dell'essere, inteso come essere umano con le sue caratteristiche umane, appunto, e sociali. Per i negazionisti dell'essere conta esclusivamente tenere lontano il virus con ogni mezzo, dividendo il mondo tra eroi e cialtroni, dimenticando che, a causa delle regole probabilmente necessarie che sono state adottate, in molti hanno avuto e avranno problemi. Bambini e ragazzi senza connessione a internet, anziani devastati dalla solitudine e tanti lavoratori senza più lavoro e nemmeno soldi per vivere, e tanti altri. E allora si va presto a dire negazionista! Un conto è se il cosiddetto negazionismo è utilizzato per fini politici, un altro se qualche dubbio deriva dalla sofferenza umana. E allora, in questo mondo da schifo, dove ormai è rarissimo trovare un briciolo di comprensione umana, io inviterei a misurare le parole prima di dare del negazionista a qualcun altro, ergendosi a giudice senza macchia di una situazione dove tutti, chi più, chi meno, usciremo con qualche ammaccatura in più e sicuramente con un po' di serenità in meno. Sei un po' negazionista, questo sì. Neghi anche, per esempio, che Danilo Alicino abbia fatto un buon lavoro qui sulle cuffie. Ma filame c'è ancora. Ecco, negazionista. Dai, c'è Franco che ci chiama da Cuneo. Eccoci. Pronto. Buongiorno, pronto. Franco. Buongiorno, buongiorno a tutti voi in studio. Io volevo intervenire su quello che si è detto ieri sulla legalizzazione della droga. Sì, anche oggi ne abbiamo parlato. Ne parliamo anche, l'avete parlato. Ma se ne parlerà ancora per i prossimi 20 anni, quindi. Ho paura di sì, perché il problema alla base sta che parlare dell'argomento di legalizzare è un argomento che fa molto piacere a tutti, quindi io non lo metterei in un'area che va da sinistra a destra. Chi ama la tranquillità, chi non vuole la violenza per strada, chi vuole cerca di pensa che nella legalizzazione tutto questo sparisce. Il problema della legalizzazione non è un'opinione, non si può parlare di legalizzare come se io volessi parlare di fisica quantistica qua con te, sì, e con, sì, Manera, sì. Io non parlo, penso che neanche voi abbiate delle opinioni sul quantismo degli etroni, sicuramente sì, però sulla legalizzazione è un tema. Secondo me il tema è che quelli che possono parlare sono coloro che sono stati a contatto con migliaia e migliaia di tossici che hanno cercato di uscirne, cosa che ho fatto per molti anni io, dove si facevano degli incontri, degli esami, dove si escludevano, è brutto dirsi, molte di questi ragazzi, perché se il ragazzo non ha intenzione, viene perché l'ha mandato la mamma, il papà, l'amante, il fratello, eccetera, lo si rimandava a casa, perché alla base di chi vuole uscire ci va la volontà. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. La seconda cosa che voglio sfatare è che costoro, nei vari incontri, tutti questi ragazzi e ragazze, perché poi ci sono le bandierine che vengono messe ogni settimana, è una settimana vinta alla bestia, sì, no? La chiamiamo così. Veniva fuori che cosa? Innanzitutto la droga si arriva con facilità se si è fumato, se si è provato a fumare, altro che non produrre fumo. Il fumo prima delle droghe, sì, la assuefazione. È un po' la linea, cominci dalla sigaretta o passi alla canna e poi... Però il discorso è sempre quello, se noi proibissimo il fumo, alla fine ci sarebbero le sigarette di contrabbando, lei non crede? Ma le sigarette cotonacce sono sempre state, l'ho fumato io da giovane. Ma qual è la soluzione, Franco? Esatto, aboliamo allora, tutto ciò che è. Allora, intanto però non diciamo che cannabis, fumo siano cose che non danno. Non siano gravi non abbiano un aspetto importante. Ma nessuno anche dice perché che non è solo come nessuno dice Manera. Che facciano bene, nessuno dice che facciano bene anche le sigarette. Ma dire. C'è anche un passo. Manera dice: provo il fumo, provo il cannabis. No, ho provato a fumare. Magari non mi è neanche piaciuto, però ho imparato a fumare. Nel momento di tristezza della mia vita, della mia fragilità, avendo già fumato, posso portarmi a il passo arrivare a uno stato etico che ti insegna questo non si fa, questo non si fa, questo non si fa. Cioè, i genitori penso allora, che diano un'educazione. Poi c'è il libero arbitrio di dire voglio fumare, voglio. No, sì, ho capito, Mina. Ma il problema invece, torna di nuovo nei genitori e nella famiglia, ma non perché abbiano proibito o meno di fumare, attenzione, perché non si sono neanche accorti il più delle volte di dove viveva il loro figlio, la loro figliola, quale dramma stavano passando. Io ricordo una ragazzina di 16 anni che si drogava, è arrivato a Natale, suo papà gli portò un cagnolino bellissimo, era quello che lei sognava, aprì la finestra e lo buttò giù dalla finestra. Questo perché voleva far capire a suo padre che che non c'era stato fino ad ora. Si fermi di Franco, ha detto tante cose, e alcune condivisibili, altre magari meno dal mio punto di vista, ma dobbiamo andare al giornale radio. Riprendiamo il discorso con anche Maria da Roma e altri ascoltatori, altre tematiche dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Uno, nessuno, 100 Milan. Ragazzi, finché permarrà questa emergenza Covid, l'anno scolastico sarà a singhiozzo. Adesso dovete spiegarmi per quale motivo, per colpa di quattro imbecilli, anzi no, di quattro criminali, bisogna colpevolizzare anche chi pratica questi sport, forse vabbè, un po' violenti, ma comunque c'è anche chi lo fa per passione, lo fa con dedizione, lo fa come se fosse un lavoro, e sono persone normalissime. Milan, non capisco perché ogni volta che ti addentri nel tema droga esce fuori tutta la tua vena retorica, tua e degli amici che inviti in trasmissione. Sandro Fortunato. vabbè, la vena retorica. Beh, un po' sì, dai, c'è un po' questa retorica. Se appena tu puoi affondare il coltello. No, io l'ho sempre detto, io sarei favorevole alla legalizzazione. Una bella legalizzazione. No, bella legalizzazione. Bella, nel senso che toglierebbe un po' di torno tanto schifo che c'è in giro. Uno vuol drogarsi, almeno va a prendere in farmacia dalla droga controllata. Io sono, non lo so, temo su questo di essere, come dire, lunedì favorevole, martedì dubbioso, mercoledì contrario, giovedì torno favorevole. Vabbè, almeno. E quindi sono una banderuola al vento. Ma quindi puoi fare politica. Esatto, avrei paura talmente delle mie azioni che sono un perfetto politico italiano. Rimando, è un dibattito, ma i tempi non sono maturi per prendere una decisione a riguardo. Se ne discuteremo, istituisco una commissione. Se tu vuoi fare il politico, come più volte tu stesso hai detto, devi fare delle dichiarazioni. No, non che tu hai detto, stavo riferendomi a quello che avrei detto adesso, che devi dire delle cose che valgono per il momento in cui vengono dette. Quindi, oggi è martedì. No, sono contrario alla legalizzazione. Richiedimelo domani e vediamo. Mercoledì, sei contrario alla legalizzazione? Non lo so, te lo dico domani, adesso non è il momento opportuno, direi. Maria da Roma, buongiorno Maria, eccoci. Pronto Maria? Sì, pronto, senta, io di questa vicenda di Colleferro la cosa più squallida, più indecente, più vergognosa è la motivazione con cui sono stati arrestati questi ragazzi. Sì. Perché omicidio preterintenzionale l'hanno inseguito con la macchina in quattro, sì, sei, sì, non so quanti, l'hanno buttato per terra, massacrato di botte fino a ammazzarlo, usando le arti marziali di cui sono a conoscenza, che sono la parte peggiore delle arti marziali, perché le arti marziali sono una cosa bellissima se fatta, certo, nei limiti. E loro dicono che è preterintenzionale. Io sono d'accordo con lei, guardi Maria, però non siamo magistrati, no, non però abbiamo il codice alla mano. C'è da dire che per uno pare già si parli, forse quello che ha sferrato il colpo, si parla di omicidio volontario. Però vedremo, saranno formalizzate le accuse. Lei però giustamente... con sdegno, cioè sembra è un'esecuzione in piena regola. Certo, preterintenzionale vuol dire, come dire, che loro diranno volevamo dargli una grande lezione ma non volevamo ammazzarlo. Questo è poi codice alla mano. Forse avranno anche ragione, Maria, non crede? Però oggi si diceva che forse l'imputazione verrà cambiata. Ma sì, per uno, forse quello che ha sferrato il colpo decisivo. Lei, Maria, comunque da cittadina, da italiana, non capisce insomma questa cautela. Non capisce questa cautela. 21 anni e di cose brutte nella mia vita purtroppo ne ho visto. Io ricordo benissimo le cose del fascismo, quando picchiavano per strada la gente, io ricordo quando davano le di un certo tipo, ma una cosa così, chiamarla preterintenzionale, intanto tu dici omicidio volontario, poi fai il processo e vedi se era volontario o no, invece fanno il contrario, partono da preterintenzionale eventualmente per arrivare, sì, non ci arriveranno, perché questa sentenza fa il paio con quella della signora che si è rotta una gamba in una buca, che è stata condannata perché dice lo sanno tutti che a Roma ci sono le buche, la signora doveva, sì, stare più attenta. Sono vicende un po' diverse, però Maria, lei ha 91 anni, ho capito bene? Sì, 91, compiuto a gennaio, ahimè. Quello che voglio dire è che oggi la magistratura è pochissimo affidabile per un'infinità di cose che sono venute fuori, che si permettono, non so, di fare quei processi in televisione la mattina, tutte ballerine, sì, e suonatori. Cioè, ci sono delle cose che la magistratura dovrebbe controllare. E dovrebbe soprattutto pensare alla famiglia di questo ragazzo e pensare che questi delinquenti con l'omicidio preterintenzionale fra 3 anni sono fuori. Questo adesso vedremo e non lo sappiamo. Intanto Maria, grazie. Non lo sappiamo, ma lo possiamo immaginare, perché questo è un preambolo veramente vergognoso. Vediamo, Leo, hai sentito tanto con che lucidità, 91 anni, lucidità che tu ti sogni, per esempio. Ma io già adesso mi sogno, sì, alla mia età, certo, già me la sogno questa lucidità. Hai visto. Va bene, c'è Ezio dall'Aquila, buongiorno Ezio. Buongiorno a lei, buongiorno a lei. Prego, dica. Volevo parlare della questione di quei signori che hanno ucciso quel ragazzo. Sì. L'esercizio in palestra non ha nulla a che vedere, perché la mentalità di costoro, che nel corso degli anni sono stati sicuramente dei bulli nelle scuole, sicuramente, e siccome c'è il buonismo del sol dell'avvenire, nessuno tocchi Caino, e i bulli nelle scuole fanno il bello e il brutto tempo. Però io, Ezio, su questo, guardi, lo dico perché lei cita Nessuno tocchi Caino, che tra l'altro è un'associazione che si batte contro la pena di morte, tantissimi dicono guarda qua, Colleferro dovrebbero fucilarli sul posto tutti e quattro, pena di morte anche a spacciatori e clienti, gente che mette insieme tutto. È che io sono contrarissimo sempre e comunque alla pena di morte, sempre e comunque alla pena di morte. Sempre il solito discorso, è lecito immaginarla per il privato, per chi subisce un dolore di questo tipo, e lo Stato probabilmente è una funzione diversa. Ma fa una grande differenza. Certo, cioè, che fa una grande differenza. Cioè, è lecito l'istinto. È lecito l'istinto, certo. L'istinto c'è, siamo, come dire, abbiamo delle reazioni emotive, l'istinto di dire ah, li ammazzerei, no? Quella frase lì. Ma lo Stato non può. Quindi io sono sempre comunque contrario alla pena di morte. Ecco, questo se me lo chiedi sia lunedì che martedì che mercoledì, ma anche giovedì e venerdì. perfino nel weekend. Dovremmo verificare, settimana verificheremo. Verificheremo, chiedimelo tutti i giorni. Claudio da Milano, buongiorno Claudio. Sì, ciao Alessandro. Eccoci, ciao. Allora io chiamo sul tema della droga. Sì. Sono cresciuto nella periferia milanese. E questo è un argomento che a me tocca molto, perché io ho avuto molti amici che sono finiti a buttarsi. Sì. A 15 e 16 anni, no? E quelle sono vite rovinate, no? Ragazzi che hanno del potenziale. E, come dire, dietro ci sono delle famiglie che non hanno gli strumenti per aiutare questi ragazzi. Magari sono persone che vivono il lavoro quasi come una schiavitù, o che magari non hanno neanche gli strumenti proprio culturali per aiutare questi ragazzi che sono nelle strade. Non c'è alternativa. Ok? E quindi, ma cosa ne pensi sul tema? Il tema, io penso, legalizzazione. Allora, ci arrivo. Allora, con l'alcol, ok, con le sigarette, lo sappiamo come funziona. I ragazzini hanno un accesso immediato a questo tipo di cose, no? Mm-hmm. Io ad esempio ho visto queste droghe leggere, queste pseudo canne di marijuana che danno adesso nei bar, cioè, vengono proposte con colori. Si tende a normalizzare una cosa che in realtà è veramente un accesso a un alcolismo o anche a peggio, no? Per cui quando c'è quell'età lì, va bene, non bisogna pensare alla gente magari che ha alle spalle delle famiglie più strutturate. Allora la mia domanda è, se è vero che lo spaccio esiste e andrebbe, nel mio parere, combattuto in maniera più severa, al contrario, in che cosa migliorerebbe la legalizzazione? Perché io personalmente, il fatto che i minorenni non possano accedere a queste cose, non ci credo. Vabbè, ok, va bene. Claudio, grazie per questo suo parere. Il tema è dibattuto e rimarrà per sempre. Beh, abbiamo parlato tanto. Io penso che la droga oggi in Italia non sia legale, ma invece sia libera. Sì, questo sì, infatti è liberalizzata anche il consumo. Ma sia libera nel senso che se voglio la trovo. Sì, in questo si dice che è liberalizzata, voglio dire è accessibile a tutti e tra l'altro è il consumo ed è penalizzato, nel senso che c'è un illecito amministrativo. Lo spaccio invece è una cosa ovviamente diversa. Andiamo al traffico, poi andremo a Vicenza a cercare di capire quello che secondo alcuni giornali viene definito come una sorta di guerra ai negozi etnici, ai kebabari, a quelli che vendono le bigiotterie, le chincaglierie. Sta succedendo questa a Vicenza? Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, le 10 e 20 minuti, vedi, quando io non annuncio quasi mai, tra poco andremo a Vicenza. Quando lo faccio? Quando lo faccio, in genere l'ospite, succede raramente, perché loro ascoltano, se ne accorgono e dicono, ma veramente mi dovevano chiamare, e spengono subito, mettono modalità aereo. È un classico, qui succede sempre con quasi tutti gli ospiti, qui a Uno Nessuno 100.000. No, non so, vorrei annunciare quello che sarà l'ospite che avremo più avanti. Avete sentito nel giornale radio sullo sciopero della fame iniziato da Cesare Battisti, condannato a 4 ergastoli? Lo dico? Prova, vediamo se mette anche lui in modalità avremo aereo. Ospite tra poco, dopo, l'avvocato di Cesare Battisti, Davide Steccanella. Comunque, invece, vedi che contro le scaramanzie e contro che le scaramanzie essere superstiziosi porta sfortuna, lo sai, eh? Io non sono superstizioso, ho delle mie piccole superstizioni, sei nel ma mondo cose dello minori. Spettacolo e non sei superstizioso. Io ho le mie piccole superstizioni, ma non so. Dimmene una. Allacciarmi bene le scarpe prima di entrare in scena. Vedi. Avvitare bene il tappo del dentifricio. Ma lo fai per superstizione o per non far uscire il dentifricio? O no, per no, non per inciampare superstizione. Sul palcoscenico? Perché sono convinto che se non avvito bene il tappo del dentifricio, poi lo spettacolo vada male. Ah, ma questo a teatro, non a casa. Teatro, ah no, no, sì. A casa lo avviti, perché sennò a teatro, guarda, richiamiamo Denise che lavora in psichiatria alla provincia di Como. No, a teatro, porti il dentifricio e lo chiudi quando mi bene. Devo lavare i denti, sì. Lo chiudo bene perché penso che... E ti stringi bene le stringhe. Questa sì. È una sfida, Luchetti. Perché chiude tutte queste cose? Te lo dico cose? Io, te lo dico io perché mi allaccio. Perché io da ragazzo giocavo a calcio ed ero abituato, prima della partita, ero abituato ad allacciarmi bene, certo. Strette le scarpe. E per me fare lo spettacolo è un po' come una partita. Quindi mi è rimasta quella cosa da quando giocavo sì, a calcio. Ma è una superstizione. E perché il dentifricio? Sfida, Luchetti. Interroga un attimo Freud. Dentifricio chiuso bene. Secondo me lo interpreta in senso sessuale anche il dentifricio, credo Freud. Di sì, credo di sì, temo di sì. Ma eccoci qua, l'assessore al commercio del comune di Vicenza, Silvio Giovine. Buongiorno, assessore. Buongiorno a voi. Finito sui giornali, su Repubblica, per esempio, accusato di aver fatto un'ordinanza, una delibera in cui con la quale vuole vietare i negozi etnici, i negozi che vendono bigiotteria a basso costo, chincaglierie, kebab bari. Lei dice invece: io voglio solo tutelare il centro storico della mia città. Allora, come la mettiamo? Ma guardi, ne ho sentite veramente di ogni in queste ore lette, purtroppo, al di là della provocazione che non merita neanche, a mio parere, un commento di Repubblica, perché addirittura parlare di leggi razziali su un provvedimento che, ricordiamo, non nasce dall'oggi al domani, segue un iter ben preciso previsto, tra l'altro pensi, da un decreto legislativo del 2016 del governo Renzi, e che vi ricordo prevede i passaggi con le categorie, la sovrintendenza, l'acquisizione e l'intesa della regione, quindi sembra che uno si sia alzato un mattino e abbia deciso di vietare di qua e di là. Non è così, la volontà è quella semplicemente di alzare l'offerta qualitativa del tessuto commerciale e individuare anche degli standard minimi a cui si devono attenere gli esercizi pubblici, bar e ristoranti. Non si chiude nulla, anche perché la competenza del comune non lo prevede. Noi abbiamo definito una perimetrazione, ricordiamo che Vicenza è un centro storico patrimonio UNESCO che va tutelato . E intendiamo farlo anche sotto questo profilo. Quindi non si chiude nulla, ma mi faccia fare la domanda successiva, non si apre neanche, cioè se io voglio aprire un kebab una volta che entra in vigore... I kebab possono aprirsi tranquillamente al di fuori del perimetro del centro storico. Ecco, al di fuori. Abbiamo individuato una serie di categorie partendo dal concetto che soprattutto in questa fase storica va valorizzato il Made in Italy, quindi abbiamo privilegiato le produzioni locali, cioè tutto questo, gli allevatori locali, quando si parla di macelleria. Bene, andiamo a valorizzare i nostri allevatori, i nostri produttori agricoli, per quanto riguarda... Cioè, guardate, è un provvedimento, tra l'altro, ripeto, condiviso con le categorie, quindi mi sono veramente sorpreso di leggere alcune che sono volgarità, ripeto. No, certo, il paragone con le leggi razziali è una follia, su questo sono d'accordo. Una follia, però, ma d'altronde però lei è un dice... giornalista che, ricordiamo, non più tardi 2 settimane fa ha parlato di karma rispetto al nubifragio che ha colpito di Paolo Berizzi. In realtà poi aveva detto, si riferiva ad alcuni abitanti di Verona, quelli che secondo lui sono i nazischini, eccetera. Però non entriamo in questa politica perché Berizzi non c'è, non può replicarle. Però, assessore, lei dice in realtà una tutela del Made in Italy c'è, cioè non si può aprire una macelleria islamica nel centro storico di Vicenza a questo punto. Noi abbiamo individuato tutta una serie di categorie, dal compro-oro, e nessuno ha qualcosa contro il compro-oro, dalle lavanderie self-service, da appunto i kebab, ma cerchiamo di tutelare, ripeto, tutta un'altra serie di negozi che speriamo possano garantirci quell'offerta che deve essere garantita all'interno di un centro storico patrimonio UNESCO. Tra l'altro non è che siamo i primi in Italia, l'hanno fatto comuni come Firenze, hanno fatto comuni come Venezia, Bologna, ma giusto per citarne alcuni che non è che siano propriamente in centro-destra, Firenze, Bologna, insomma. Quindi addirittura Roma. Il dibattito c'è, un compro-oro a lei non piace, come dire, nel centro. Un venditore di bigiotteria a basso costo oppure un kebabaro stia a Vicenza, ma non in quel perimetro di aree identificate e che coincidono col patrimonio UNESCO. Questo è il dato di fatto, cioè non c'è discriminazione, però lì meglio di no. Anzi, negozi che non sono gestiti solo da extracomunitari, nel senso che compro-oro può essere gestito da chiunque. Sì. Ma diciamo, come avete stabilito l'elenco di cosa c'è e cosa non ci può essere in queste vie? A parte basta il fatto che anche su questo è bene fare chiarezza, perché anche lì ho letto che noi proibiremo agli stranieri di aprire un ristorante oppure aprire un ristorante brasiliano. Assolutamente, gli stranieri possono venire a Vicenza, aprire anche in centro storico qualsiasi tipo di attività che possa essere attinente a quello che abbiamo previsto nel regolamento. Un regolamento che non è che è stato fatto sulla base delle mie volontà, ripeto, ci stiamo lavorando da 2 anni. Ogni passaggio è stato condiviso come previsto dal decreto legislativo, quindi veramente trovo assurdo che lo si affronti con una diciamo volontà di metterci l'ideologia. L'ideologia non fa assolutamente nulla, no, vogliamo solo valorizzare la nostra, nostra realtà. Io capisco che lei dice, se viene appunto, facciamo un ristorante brasiliano dove si mangia una straordinaria picagna, tutto pettinato eccetera, va benissimo, però il kebab no, ecco, ricito il kebab. Cioè, perché l'uno sì e l'altro no? Uno degrada e l'altro invece no, ma, no, ma guarda, allora, no, non è che tutti i kebab che abbiamo in città Vicenza chiuderanno, ripeto, su questo voglio essere chiaro, voglio essere chiaro, che poi ci siano stati dei problemi, poi non so se nelle altre città questo non accade, spesso e volentieri però noi abbiamo delle segnalazioni di degrado attorno ai kebab, ma il tema non è tanto il kebab o meno, stiamo parlando di realtà artigianali, i kebab non sono esercizi pubblici, sono realtà artigianali, quindi c'è il tema anche della consumazione, della somministrazione, e poi le ripeto, il leitmotiv di questo regolamento è valorizzare il Made in Italy. Almeno su questo vogliamo. In questo lei lo ammette, questo c'è. Assolutamente, ma ne vado orgoglioso, e vado orgoglioso che poi questo tipo di esigenza sia stata condivisa anche con le categorie. Ma non c'è però in questo modo il rischio, d'altra parte, di ghettizzare alcune zone della città? Cioè, se in una zona mi trovo tutti quei negozi, quegli esercizi che secondo voi sono ritenuti meno qualificanti, magari si rischia di degradare alcune zone dal vostro punto di vista. Ma questo, noi a Vicenza è una città di 100.000 abitanti, tutto va su misurato anche con la realtà su cui si deve intervenire con provvedimenti di questo tipo. Noi riteniamo che non ci sia assolutamente questo rischio nella nostra città. Va bene, assessore, vediamo, insomma, polemiche assicurate, ma lei è qui a fare chiarezza sulle posizioni dell'amministrazione. Fratelli d'Italia, questo è il suo partito di riferimento, se non sbaglio non l'ho detto, mi scuso, lo dico adesso. Silvio Giovine, assessore al commercio del comune di Vicenza, grazie per essere stato qui. Vorrei sentire Davide dalla provincia di Oristano prima della borsa. Davide. Sì, buongiorno Milan, buongiorno Manera. Sono un ex fruitore di droghe leggere. Sì. E parlo un po' per quello che ho vissuto io, quindi io so che se fumi tu vieni comunque in una qualche maniera alterato nella percezione delle cose, e se sei anche addirittura con una dipendenza, non te ne frega se sei al lavoro, se sei in libera uscita, se sei per i fatti tuoi. Hai la necessità di farti. Ora, io lancio una provocazione addirittura, perché proprio per dire che sono contro la droga. Qual è la secondo me una buona parte degli incidenti sul lavoro che nascono, che si determinano oggi, sono frutto del fatto che ci sono delle persone che, indipendentemente dal fatto che siano al lavoro oppure no, hanno l'esigenza di procurarsi la droga, di togliersi la famosa scimmia. E poi non ha la necessità necessaria, o che stiano guidando, o che siano sopra un'impalcatura, o che siano sopra un tetto. Sicuramente sì, non ho una percentuale, però sono anch'io convinto Io la provocazione che lancio è: facciamo in maniera che per legge vengano fatte le analisi sulle persone che possono essersi infortunate o che possono essere decedute, e che per questi non si debba pagare. Cioè lei dice a posteriori, cioè se uno muore sul lavoro, cade da un cantiere, bisogna fare l'autopsia e verificare se causa un incidente, dice, per esempio la guida di un mezzo pubblico, viene già fatto. Cioè se uno causa un incidente, subito ti fanno l'esame del sangue e ti valutano, insomma, se sei in stato. Però se ho capito bene, Davide lo allarga a dire, cioè un incidente sul lavoro, una tragedia, non so, di uno appunto che cade da un cantiere, verifichiamo se era nello stato psicofisico Ragazzi, però così. La cosa inquietante è che sembra che Davide, grazie per... in Italia ci siano veramente tante persone che fanno uso di droghe di vario tipo. Beh, sì, questo ci sarebbe da chiedersi. Questo sì, questo sì. Allora, 10 qui no, però minuti. Diciamo qui, in questo studio, no, qui... all'interno di questo studio, che io sappia, questa è come, che io sappia, no, che io sappia. Ma se tu non sai neanche per te stesso, perché dici che neanche sai di te stesso, cioè come fai a sapere poi di me? Infatti ho detto che io sappia di te, non metterei assolutamente la mano sul fuoco, ma guarda, di te stesso, quindi neanche che io sappia puoi dire. Per te non metterei neanche la mano, ma non sul fuoco, neanche su un fiammifero proprio, anche spento, figuriamoci su Mauro Meazza. Eccolo là, dai, andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Facciamola breve, questi sono delinquenti e basta. Chiuderli in galera a pane, acqua e lavoro, perché nobilita e fa azionare il cervello. You always be. Buongiorno Alessandro Milan e Leonardo Manera, però andrebbe preso in considerazione anche lo stato emotivo dei farmacisti se dovessero iniziare a vendere droghe alle persone, perché così almeno è tutto legale. Cioè, un farmacista che magari dà un certo quantitativo di eroina a un ragazzo sapendo a cosa va incontro quel ragazzo, beh, al farmacista potrebbe anche dargli fastidio. Alessandro, Leonardo, per favore, perché non chiamate il signor Belotti e non gli chiedete chiarimenti sulla petizione che ha raccolto in un paesino della Val Brembana per istituire autobus separati per studenti locali, bianchi e richiedenti asilo, come li chiama lui, neri? Io non ci credo, ma veramente Belotti, ma no, ha fatto questa, allora, proposta? Guarda, su qualche sito c'è, tu sai che gli ascoltatori sono, io credo acriticamente agli ascoltatori, se un ascoltatore mi dice che tu oggi ti vesti di nero e invece sei vestito di bianco, io credo, metto in dubbio i tuoi vestiti. Sto vedendo anch'io su alcuni siti, All Belot pare che abbia fatto questa proposta, ma porca miseria, ma lo so, domani lo chiamiamo, adesso non abbiamo tempo. Depositata in prefettura una petizione con 714 firme per chiedere, vabbè, la chiusura di un centro di accoglienza, non è tanto questa la questione. All'interno di questo avrebbe chiesto pullman separati per coloro che sono in questi richiedenti in questo centro e gli abitanti del luogo. Non lo so, la doper letta così su alcuni siti. Se così fosse, come la giudicheresti? Ma dai, ne merita, adesso non si può dire, però una stupidata, ecco. Cioè, insomma, se è così, cioè autobus per quelli e autobus per i residenti, mi sembra una follia, insomma. Vabbè, comunque abbiamo chiamato l'avvocato, altra vicenda, ma abbiamo sentito il giornale radio, l'avvocato di Cesare Battisti, Davide Steccanella, torna con noi, avvocato, buongiorno e grazie. Buongiorno. Il clima a cui si riferiva, stavamo parlando della vicenda di Colleferro, dell'uccisione, stia tranquillo, però insomma lei sa, e l'altra volta ce l'ha spiegato bene, che esiste un clima un po' dal buttiamo via la chiave. Allora, voi potete immaginare, quando è uscita la notizia, Cesare Battisti inizia lo sciopero della fame. Sì, come si può scatenare l'idea del ma chi se ne frega, ma facciamolo morire di fame, no? Questa è la pancia del paese, una pancia che non dovremmo neanche più solleticare. Esiste, la teniamo lì da parte e va bene, insomma, lo sappiamo da che mondo è mondo. Però ci può confermare intanto la notizia? È tutto vero, immagino. Purtroppo è vero, è una lettera che ho ricevuto ieri dal mio assistito, ma devo dire che la cosa che sconcerta, sinceramente, è stata l'assoluta assenza di risposte all'istanza che avevamo presentato a tutti gli organi competenti ancora il 18 maggio, dove denunciavamo un fatto assolutamente illegittimo, cioè che Battisti si trovasse in isolamento di fatto da più di un anno e mezzo, nonostante la pena che dovesse scontare in isolamento fosse di 6 mesi, perché era stato classificato in S2 e mandato in un carcere dove non c'erano altri S2. Quindi il 18 maggio, dopo un anno e mezzo, voglio dire, abbiamo fatto un'istanza formale a tutti gli organi ministeriali dicendo delle due l'una: o me lo sposti di carcere o lo declassifichi, considerato che si tratta di un soggetto che ha commesso i suoi fatti più di 40 anni fa, quindi non è certo pericoloso in sicurezza. Totale assenza di risposte che ci impediscono anche evidentemente di impugnare un provvedimento amministrativo, cosa che in un ordinamento civile è consentito, perché se non ce l'hai non puoi impugnarlo. E il Tribunale di Sorveglianza recentemente ha concesso il semestre di liberazione anticipata, attestando quindi la buona condotta carceraria del detenuto, per cui ancora più schizofrenica l'idea del Ministero di classificare come in alta sicurezza un soggetto che, ripeto, ha commesso l'ultimo fatto nel 79 in un contesto sociale e politico ben diverso da quello attuale. Nessuno discute la pena, nessuno discute il diritto, ma qui si mette in presenza di una tortura, perché più di un anno e mezzo illegittimamente in isolamento un soggetto detenuto non è degno di un paese civile. E il fatto che il Ministero neppure risponda alla difesa, sinceramente, lo trovo sconcertante. Poi ognuno commenti quello che ritiene. Sì. E lo sciopero della fame è, come dire, è chiaro che quando uno fa lo sciopero della fame, inizia lo sciopero della fame, lo fa per attirare l'attenzione mediatica. Se più che fare le istanze non ci rispondono, io chiaramente mi dispiace tantissimo questa iniziativa. È una persona di 65 anni con delle malattie, quindi sono sinceramente preoccupato, ma onestamente di fronte a tutte le azioni, come dire, legali e lecite a cui non danno risposta, a un soggetto non resta altro che questo. Non so cosa suggerirgli di diverso, sinceramente. Le abbiamo provate tutte, non ci rispondono, e che devo fare? Mi dispiace molto questa cosa, mi allarma anche parecchio. Lei dice non è che c'è stata una risposta, la risposta è il silenzio. Vero, il 18 maggio a tutti gli organi, reiterata il 12 giugno, a tutt'oggi non mi è stata fornito nemmeno un no. E cioè, la sua spiegazione qual è? Dal suo punto di vista, perché non è mai arrivata una risposta? Guardi, sulla vicenda Battisti non c'è volta in cui non mi sorprenda, ahimè, in un modo o nell'altro, purtroppo. Quindi non è tutta una vicenda, ripeto, che fuoriesce dagli abituali canoni, e quindi non sono in grado di dare una risposta, non lo so. Cioè, secondo lei c'è una sorta di accanimento per tutto ciò che ha rappresentato anche questa persona? Mi sembra che ci sia un atteggiamento di uno stato vendicativo assolutamente inaccettabile, voglio dire, ma direi che questo è all'ordine del giorno, anche quando aveva detto che gli davano, ma che non poteva mangiare viso in bianco perché stava male, qualcuno ha scritto vuole il caviale. Capisce anche lei che, voglio dire, cioè, è tutto... Sì, questo lei ce l'ha spiegato l'altra volta, cioè tutto, cioè, quello che gira attorno a Battisti nel momento in cui è anche una notizia, cioè non è considerato, secondo suo parere a torto, un detenuto come gli altri, nel senso che... No, ma non è che lo dico io, scusi, in isolamento da un anno e mezzo credo che non esista altra persona, anche perché lui non è in 41 bis, voglio dire, quindi cioè, non ha senso comune, ma credo che in qualsiasi paese civile un detenuto non possa essere in isolamento per quasi due anni. Cioè, oltre ad essere illegittimo, è anche inaccettabile sotto ogni aspetto. D'altronde, come aveva detto l'ex vice ministro Salvini, digiuni, ecco, sarà contento il ministro Salvini che adesso digiuna, te lo devo dirle. Ci ricordano la frase? Sì, me la ricordo. Io non ricordo. So più cosa dire al mio assistito, sinceramente, anche perché giustamente anche lui dice qui, evidentemente, io su di me non vengono applicati i diritti. Ma lei comuni, l'ultima perché... volta, ricordiamo se non sbaglio, a Oristano si trova, sì. Battisti. E la, sì, certo, sempre rimasto lì. Lo vede? Ha avuto modo di vederlo? Ha avuto modo di sentirlo? Io nell'ultimo periodo non a sentirlo, sì, ci siamo scritti. Vederlo l'ha visto con l'altro il collega, COVID, l'avvocato Sollai che è di Cagliari, quindi lo va a trovare ogni tanto, perché chiaramente è complicato anche dove è stato messo. Però, voglio dire, sinceramente mi sorprende fino a un certo punto, perché quando uno non ha altre possibilità, il modo di fare è questo. Se poi questo otterrà soltanto nuovi strali, è benissimo, morirà di fame in carcere, non so cosa dire. Cioè, io francamente le ho provate tutte le vie istituzionali, non mi rispondono neanche. Sai che su questa frase morirà di fame in carcere, puoi immaginare le persone dicono e ci mettono il cumulo alcuni del e chi se ne frega. Certo, ma come ho detto già una volta, perché non ripristiniamo la pena di morte a questo punto? Mi sembra più serio e meno ipocrita. Se lo Stato non sa garantire la salute dei propri detenuti, è meglio che faccia un altro mestiere, mi scusi, cioè non è nulla di male, basta sceglierlo. In tutto questo, Battisti, senza fare, come dire, violare la privacy, eccetera, ma si può sapere che dice, cioè nei colloqui riguardo a queste vicende, come... Ma di quale? Del trattamento che sta subendo da quando è arrivato? Sì. Chiaramente, più che cosa deve dire uno che non parla con nessuno da un anno e mezzo? Parla con lei. Ogni Vabbè, appunto, capito. Lo chiedo a lei perché lei è l'unica persona. Mandato in Sardegna a 600 km dal suo legale. No, ma io non lo dicevo, parla per lei, come dire, che si deve accontentare. Dice, visto che lei è l'unica persona che ci parla, se riesce a trasferirci qualcosa dello stato d'animo di quello che è una persona che sta cercando di sopravvivere in delle condizioni detentive che sono oggettivamente sotto la soglia dell'umana decenza. Questo. questo, questo posso dire, poi, che il dettaglio ogni volta, voglio dire, non è come uno, voglio dire, che in una situazione assolutamente intollerabile. Ma ripeto, è già strano che riesca ancora ad articolare delle frasi, secondo me, perché io al suo posto, dopo un anno e mezzo che non parlo con nessuno, farei fatica sinceramente ad articolare una frase. Secondo lei, l'ultima questione, fino a dove è pronto a portare questo sciopero della fame Cesare Battisti? Questa sinceramente è l'unica domanda che a cui non so rispondere, perché io faccio l'avvocato di Cesare Battisti, non sono il suo alter ego, quindi questo sinceramente non lo so. Non lo so. Va bene, so. se è d'accordo. Mi auguro non l'estremo, chiaramente, perché è ovvio che mi auguro che la cosa rientri in fretta, perché sono sinceramente preoccupato per le sue condizioni di salute. Va bene, avvocato, noi la ringraziamo, ci sentiamo magari nei prossimi giorni, vedremo di come andrà la situazione. Grazie per la disponibilità. L'avvocato Davide Steccanella e l'avvocato di Cesare Battisti. Leonardo, non te li leggo i messaggi, perché insomma. Perché rispetto a Battisti c'è probabilmente un comune sentire che va in quella direzione. La cosa strana, per esempio, di come sono stupito stamattina, prima con Simone Spezia. Ho fatto queste battaglie, torni. Ma per esempio, sentivo nella rassegna stampa di Simone Spezia che invece rispetto all'evasione di Johnny lo Zingaro, c'è invece un sentiment quasi positivo, empatia, e anche lui ha fatto reati comunque gravi, e questa è una cosa abbastanza curiosa. Anche qualcuno curiosa. Qua in redazione, non lo dico, in redazione, qualcuno diceva, beh, però Johnny lo Zingaro, il fascino del crimine, no, Miriam Lucchetti fa, sfida Lucchetti, chi secondo te all'interno della redazione suscitava, aveva qualche afflato, così come dire, di fascino, di fascinazione del male. Tra l'altro pare che sia evaso, Graziano, dicevano, per andare a trovare una donna, Johnny lo Zingaro. Mentre ieri leggevo che anche Graziano Mesina, ve lo ricordate, è scomparso da 2 mesi, anche lui sardo, fuggito dalla situazione, e da 2 mesi non lo ritrovano più. Graziano Mesina credo che abbia, forse anche lui, dicevano, per andare a trovare una donna, che è la stessa forse di Johnny lo Zingaro. Capito, ma andiamo a cercare questa donna. E io ti ho anche seguito per un attimo. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, è successo un dramma esistenziale. Noi qua siamo alla trasmissione dei drammi, è scomparsa la messa in onda. Quindi c'è Miriam che continua a dirmi, guarda cosa ti ho scritto sulla linea 3, la linea della scritta. Bisognerebbe chiedere a Sandro, dico, Fortunato. È scomparsa la messa in onda. E Miriam che entra in studio dice, ma no, c'è una domanda per Leo a pagina... O la fai tu la domanda per Leo, Miriam, visto che sei entrata, o se no... Certo che Sandro Fortunato, io lo farei venire qui un giorno a sistemare tutto, anche queste schermate. Vediamo, aspetta che Miriam, quella è la pagina dei messaggi. Vabbè. Ci vorrebbe un po' più di educazione. Ma perché non facciamo... messa in onda, guarda lì sotto, l'ultima Miriam. Attenzione, la messa in onda. Claudio da Roma, ecco, tutto questo per dire che c'è Claudio da Roma. Prego, prego. Claudio. Buongiorno. Sì. Volevo spendere 2 parole per l'attore Leonardo Manera, che io ho avuto in un piccolo film che si chiama Notte da paura, dove lui faceva il personaggio di Pierrot con la T silente. Sei Claudio Fragasso? Ce ne aveva. Il regista, questa reunion è incredibile. Questa reunion. E com'era? Com'era come attore? Ma era bizzoso, chiuso, sì, non comunicava molto, la sera non andava mai a fare le scene di bisbocce. Sono queste star hollywoodiane che... Sì, molto, mi ricordava molto Brad Pitt, cioè erano lui e Pannofino, devo dire, Pannofino, persona che beveva, faceva casino, Invece era sempre chiuso dentro la sua stanzetta. Amaro. Mi sentivo rifiutato, perché mi sentivo rifiutato da voi fondamentalmente. No. Sì. Devo dire la verità, molto creativo, nel senso che il personaggio l'abbiamo poi sviluppato insieme, nel senso che c'erano queste battute che io inizialmente non capivo, perché devo dire la verità, a primo impatto non lo capisci. perché è, un, perché è geniale, che... perché è geniale, è geniale, è così. È così. O è matto, sono due cose. Comunque è un peccato che quel film sia stato un insuccesso totale, una grande debacle. Vabbè, dispiace. No, adesso non... Ma quale debacle? È andato in onda in televisione per tante volte. Oh, prima non l'ha visto nessuno. Claudio. Ah, io l'ho visto. Almeno voi, credo. L'ha visto mio figlio, non voleva più riconoscermi come padre. Smettila. Salutiamo. Allora, beh, vedi che carrambate che succedono. Straordinarie, ma dobbiamo chiudere questa puntata con la solita educazione. Perché è venuta a trovarci la sardina Elenio Mariotti. Buongiorno, Elenio, ben trovato. Buongiorno. Ma mi avete... Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prima di tutto, mi avete ancora invitato, non sarebbe stato educato rifiutare. Cioè, infatti la cosa che contraddistingue le sardine è l'educazione. Cioè, per esempio, noi quando facciamo il bagno in mare stiamo attenti a non fargli schizzi. Se qualcuno fa uno starnuto, però, diciamo sempre salute. Quando siamo in coda al supermercato aspettiamo il turno, anche se abbiamo preso solo un pacco di biscotti. Giusto. Che va bene usare la cassa prioritaria, ma sempre con educazione. Perché noi siamo diversi da quelli che si mettono nella fila per chi ha meno di 10 prodotti, poi ne hanno presi 11 e dicono vabbè, ormai sono qua, ci resto anche se 11 prodotti. Quello è fastidioso, bravi, voi non lo fate. Poi se c'è una battaglia che portiamo avanti da sempre, che se non vuoi bollini al supermercato, però almeno li regali a quelli dietro. Sì. Cioè non è che li dici no e li tieni la cassiera, li dai, li offri con educazione a chi viene dopo di te. Io penso che bisognerebbe fare così. Bravo. Come va? Ma educatamente bene, diciamo. Senta, io ho un po' paura a fare adesso delle domande, perché posso? Ma prego, le do il permesso educatamente, la ringrazio anche di questa sua educazione. La prima proprio è la base, gliela faccio. Chi sono queste sardine? Le sardine, perché gliel'ho fatta varie volte questa domanda. Beh, cioè, vuole che le risponda a questa domanda un po' aggressiva. No, veramente. Con dei toni maleducati, spiacevoli. Boh. Comunque noi siamo donne, uomini, insegnanti soprattutto di frisbee. Ah sì, è vero, come il vostro... Che il frisbee Mattia. Si gioca perché? Perché? Si gioca senza arbitro, quindi può giocare solo chi è veramente educato. Ma non so se non ci sia l'arbitro, credo che ci sia l'arbitro. Quello che però non dobbiamo mai dimenticare è che se prima di mettere le patate in forno le fai bollire un po', poi rimangono più croccanti. Sì, ma cosa c'entra? Per questo che adesso che sia arrivato il momento crediamo di esporci. Oh, ecco, a proposito di esporci. Dobbiamo avere il coraggio di dire in cosa crediamo davvero. Perfetto. In cosa crediamo davvero? La generosità. L'educazione. Perché la generosità è educata, la non generosità non è educata. Se c'è la generosità puoi fare tante cose, tagliarti le unghie, fare un origami a forma di drago, bere un succo con la cannuccia però senza far rumore. Perché se c'è la generosità... Non serve tirare su il succo facendo rumore. Chiedo scusa per questa immagine un po' forte, però mi sono preso la responsabilità di dire le cose. Sì. Ecco, a proposito, perché abbiamo un minuto, referendum. Siete col fronte del no? Ma sì. No. Cioè sì col no? Cioè, in ogni caso non è una domanda educata. Domanda, ma io voglio dire lo stesso che le sardine ci sono sempre nei momenti più difficili, come quando c'è da staccare un pezzo di scotch e non trovi l'inizio del rotolo. Sono stato un po' diretto, chiama la sardina, ma chiama. Mi permetto di parlare a nome di tutti quando dico che lo shampoo migliore è quello che fa poca schiuma. Cosa c'entra? Ho alzato un po' i toni, mi sono esposto anche nel mondo dello shampoo. Tra l'altro, scusi, siete tornati in diverse piazze contro l'arrivo di Salvini, ho visto. Guardi, velocemente dico solo due cose. Due. La prima è che il commercio di zanne di elefante è una cosa brutta e dovrebbe essere illegale in tutti i paesi. E Salvini cosa c'entra? La seconda è che l'infradito in città non si mettono mai neanche se fa caldo. Ho chiesto di Salvini. Sono stato un po' diretto, ma dobbiamo smettere di dimenticare i problemi accendendo una candela profumata allo zenzero. Vabbè, ma cosa c'entra con Salvini? Io non l'ho capito. Candela profumata allo zenzero è un modo per risolvere i problemi. Ho risposto alla sua domanda perché è sempre una questione di educazione. Va bene, signore Elenio Mariotti, sardina, ci venga a trovare ancora, magari qualche domanda riuscirà. Riuscirò anche a fargli a ottenere qualche risposta. Tanto noi ci troviamo domattina. Ciao. Nessuno.